Abbiamo detto l'altra volta, abbiamo citato quello che è scritto nel Devarim, Veitbarech bilvavo lemor shalom yeli. La persona lì si parla di nuovo, di cosa si parla lì? Di qualcuno che va a vedere altre cose, Avodazara, e la persona si autoconsola, si dice tutto mi andrà bene, shalom yeli, ki bishrirut libi elech, io seguirò il mio cuore. E abbiamo spiegato che la persona che va e trasgredisce, va contro HaKadosh Baruch Hu, in un certo senso si sente molto tranquillo, perché non vede un effetto immediato su quello che è il suo bene materiale in questo mondo. Abbiamo spiegato che a livello di Kabbalah, come si spiega questa cosa? Se una persona si tiene alle regole, allora vuol dire si tiene entro i limiti che HaKadosh Baruch Hu ha posto nella Briata Olam, nella creazione, che si chiama Seder Hishtalshelut, tutta questa catena di discesa della energia e la Chayut, la vitalità che venne da HaKadosh Baruch Hu verso la creazione, verso il mondo. Allora lì è tutto con un Cheshbon. Cosa vuol dire Cheshbon? Tutto con un conto, un calcolo molto preciso, come abbiamo approfondito nelle ultime lezioni. Mentre invece chi non si sottomette a questa struttura, allora è come se riesce ad avere il suo flusso, la sua vitalità, la sua energia direttamente da qualcosa di più trascendente, dove non c'è Heshbon, dove c'è flusso molto, molto abbondante. Allora abbiamo detto che nel prossimo versetto c'è scritto Lo Yoveh Hashem Seloach Lo, HaKadosh Baruch Hu non vorrà perdonare questo idolatra o questo trasgressore. Perché? Dice per i non ebrei il loro legame, diciamo così, è direttamente da questo effetto trascendente. Ma i Bnei Israel devono tenersi a quello che è la struttura della Torah e delle mitzvot. Quindi, di conseguenza, visto che Am Israel stessi sono, c'è scritto, Ki chelek Hashem amo, abbiamo citato, HaKadosh Baruch Hu, in qualche maniera Am Israel chelek Hashem, è come se fosse una parte di Hashem, questo rappresenta la Neshama, che è considerata una parte, un raggio della luce di Hashem. E cos'è il nome di Hashem? Kichelek Hashem, Yud Kei Vav Kei. Vi ricordate che abbiamo spiegato che le lettere Yud Kei Vav Kei rappresentano la Seder Ishtalshelut. Yud rappresenta Chochmah, Hei rappresenta, la prima Hei rappresenta Binah, la Vav che corrisponde al numero 6 e che anche nella sua forma va dall'alto verso il basso. Rappresenta le sei Midot, i sei successivi attributi, e l'ultima Hei rappresenta Malchut, che è l'attributo attraverso il quale HaKadosh Baruch Hu effettivamente la creazione viene proprio in atto. Chelek Hashem, Am Israele legato ad Hashem attraverso questa struttura. Hashem si lega ad Am Israele attraverso questa modalità. Quindi chi esce fuori è come se in qualche maniera si ribelli, facesse una ribellione, facesse qualcosa contro. Rivolta. Un tipo di rivolta, bravo. Quando a Kadosh Baruch Hu c'è scritto Asher Bachar Banu Mikolami, che sceglie Am Israel, è in questo proprio che si esprime la scelta, cioè che sceglie di avere un rapporto specifico. Secondo un Heshbon, secondo un dettagliato ed accurato sistema. In questo anche si esprime il concetto della scelta. E su questo si cita un Midrash, che adesso citiamo in questa pagina 112. Ukmochen Nishamot Israel Bacharu Bashem. Qui è una cosa molto interessante che dice il Midrash. Non solamente HaKadosh Baruch Hu sceglie le Neshamot di Bnei Israel, quindi Asher Bachar Banu, che ha scelto noi, ma addirittura le Neshamot scelgono HaKadosh Baruch Hu a loro volta. Che vuol dire? Allora qui citiamo questo Midrash, iniziando da una citazione, questo è il Midrash, è sul Midrash Eicha, sul libro delle Lamentazioni che si legge a Tisha B'Av. Cosa c'è scritto? Moshe Katuv, c'è scritto lì, Chelki Hashem, Amra Nafshi. Chelki Hashem, la mia parte è Hashem, disse la mia anima, Amra Nafshi. Cosa significa la mia parte è Hashem? Una cosa molto difficile da capire. Allora il Midrash dice, vi faccio una metafora, una parabola. Cosa è successo? Una storia, raccontiamo una storia. Racconta così. Ita ben Midrash Rabbah, il Midrash dice proprio lì sull'Eicha, Rabbi Avua Beshem Rabbi Yochanan. Disse Rabbi Avua a nome di Rabbi Yochanan. Amar la Melech, Shenichnas la Medina. Amar disse che entrò, Mashal, un re entrò in un paese. Quando entra un re in un paese, non entra mica da solo. C'è tutta una entourage molto importante. E il Midrash descrive che c'era con questo re, Vehayu imo, si trovavano con insieme a lui, Duhasin, possiamo tradurre ministri, tutta la corte, ministri, Ifrachin, capi di governo locale, Istratilutin, capi dell'esercito, tutti i tipi di diplomatici, eccetera, eccetera. Vehayu gdolei amedina yoshvim beemza amedina. I grandi politici e guide del paese che è stato visitato dal re erano lì nella capitale, in mezzo, cioè nel posto più centrale. E chiaramente ognuno vuole entrare nel favore del governo che sta visitando, del grande re con i suoi ministri. Ok? Allora, questi governatori locali che stavano ricevendo la visita, Chadamar, uno ha detto, Ana Nasiv Duhasin Legabi. Io mi farò da, diciamo, No, mi avvicinerò a questi ministri, Duhasin. O duchi, benissimo, bravo. Chadamar Anana Sivi Frachin. Un altro ha detto, io mi avvicinerò e diventerò amico dei capi di governo locale, regionale, che magari. Un altro ha detto, Chadamar Anana Sivi Stratilutin. Io mi avvicinerò a, mi farò amico, amicizia con quelli che sono capi dell'esercito. Ognuno ha trovato un modo per entrare in amicizia con qualche tipo di esponente del governo, così per avvicinarsi al potere, al flusso, al bene, eccetera. Aya, Pikeach Echad. C'era tra di queste, per tra di loro, c'era una persona che era intelligente. Più intelligente degli altri che abbiamo detto. Amar, e in questa riunione lui disse, Anna Nasiv le Malka. Io prendo in amicizia il re. De kulhu mitchalfin. Perché tutti questi ministri, duchi, duci, capi governo, capi esercito, tutti questi funzionari alla fine possono essere cambiati con altri. Un malka e non mitchalef, ma il re non può essere cambiato. Questa è la parabola che il Midrash dice. Il Midrash dice, Kach, nella stessa maniera, Ovdei kochavim umazalot, gli idolatri, mehen ovdin lachama, alcuni servono, adorano il sole, altri effettuano un culto alla luna, ovdin la levana, umehen ovdin le etzva even, altri fanno, adorano il culto dei oggetti come, oggetti materiali, pietra e legno, eccetera. Oggetti che si costruiscono da qualsiasi materiale. Aval Israel, ma Am Israel, Einan Ovdin, Ela le Akadosh Baruch. Non servono che Akadosh Baruch stesso. Ed è così che il Midrash spiega, Hadahu dichtiv, e questo è il senso di quanto è scritto, Chelki Hashem, la mia parte è Hashem, Amra Nafshi, disse la mia anima. Cioè, che l'ebreo deve capire che non è solamente che deve dire Asher Bachar Banu, Akadosh Baruch Hu ha scelto me. Anche io devo scegliere Akadosh Baruch Hu. Cioè deve esserci qualche cosa anche da parte mia che mi devo avvicinare verso Akadosh Baruch Hu. Non è sufficiente l'idea e il riconoscimento del fatto che tu sei stato scelto per qualcosa. Ma anche tu devi fare una tua scelta. Anche tu dalla parte tua ti devi avvicinare verso Akadosh Baruch Hu. Simile a quello che dicevo stamattina con le korbanot, no? Quindi, chi akriv mikem, sei anche tu che ti avvicini. Zeu shea Torah nitna lanu. È vero che la Torah ci è stata data a noi, Adam Israel. E come dice il Zohar, de oraita mechochma nafkat, la Torah, oraita, deriva da Chochmah, da Chochmato shel HaKadosh Baruch Hu Yitbarach, cioè la Chochmah di HaKadosh Baruch Hu, la saggezza di HaKadosh Baruch Hu. E quindi inyan HaTorah u'mitzvot, tutto ciò che riguarda la Torah, tutto ciò che riguarda le mitzvot, hu mitzad ha-primiyut, è di natura interiorità. Invento io la parola. Non ciò che è trascendente, ma quello che invece è interiore. Interiore vuol dire è delineato in una certa maniera, ha certi parametri e ha certe indicazioni specifiche. Senza questi parametri non è più la cosa stessa. Siamo fuori dai parametri. Senza il cheshbon, torniamo al cheshbon, tutto è calcolato. Che appunto shesham hu cheshbon vea medida, lì c'è esattamente la misura, il calcolo, שצריך להיות באופן כך וכך דווקא, che deve essere per forza in questa maniera esattamente. Se in un'altra maniera, non si tratta più di quello che vogliamo, è un'altra cosa. Ok? ונתנה לישראל דווקא, לפי שהם מבחינת הפנימיות. L'aspetto della Torah, che è regolato, diciamo così, da questo cheshbon, dal modo che HaKadosh Baruch Hu ha voluto che sia impostato, è stato dato a chi? A Am Israel, che Am Israel stesso, anche le Neshamot derivano dallo stesso livello. Anche lì derivano dal concetto del Pnimiut, qualcosa di interno, interiore. Allora, la Neshama che deriva da un livello interiore, alla Neshama viene conferita la Torah, che a sua volta anche deriva da un livello interiore, della luce di HaKadosh Baruch Hu. Quindi è come se dicessimo abbiamo qualcosa da alimentare. Ok? L'alimentazione deve essere adatta a quella cosa. Non puoi alimentare un pesce con il mangime di una pecora. Vero? Bisogna chiedere a William se è d'accordo. William è d'accordo. William è d'accordo. Allora, vuol dire, se questa è l'impostazione spirituale, il DNA spirituale della Neshama, qual è l'alimentazione della Neshama? Quello che è adatto, quello che è simile, che deriva da una simile fonte, da una simile impostazione. Ecco, a livello interiore, la Torah viene data ad Am Israel, perché entrambe derivano da uno stesso sistema. Come? Stessa fonte. Stessa fonte, sì, tutto viene dalla stessa fonte, però nello specifico chiaramente approfondendo. E quindi la persona che non segue la Torah e tutto gli va bene, come tutti si chiedono spesso, com'è che quelli che non fanno il bene hanno tutto il bene del mondo? Allora dice proprio per questo, perché sembra che gli va tutto bene, che non si tiene al cheshbon, non si tiene al calcolo e rientra in uno schema che c'è tutto il bene del mondo, ma non sta alimentando se stesso davvero, anzi si sta affamando nella Neshama, perché l'alimentazione di Israel arriva attraverso questo Cheshbon, arriva attraverso il Cheshbon che è delineato dalla Torah, dalla Mitzvot. Si avvicina al Goy, così. Sì, quando Israel rientra invece in questo, quando si rende conto che non solamente HaKadosh Baruch Hu Bachar Banu, non solamente HaKadosh Baruch Hu ha scelto noi, ha scelto la nostra Neshama, ha scelto la persona Am Israel, ma si rende conto che anche Israel stesso deve scegliere HaKadosh Baruch Hu. Certo. Allora vuol dire, una persona arriva a un certo momento, deve realizzare che le cose non sono necessariamente scontate. Sono nato così e quello che sono, eccomi qua. È tutto naturale. Come per un bambino piccolo. Un bambino piccolo è scontato che gli danno da mangiare. Ok, però dopo che arriva diventa un po' più grande e deve guadagnarsi da solo da mangiare, magari uno potrebbe non riconoscere questa cosa. Mi hanno sempre dato, continueranno a darmi. Però arriva un giorno che poi non c'è nessuno che gli dà niente. Deve fare qualcosa da solo. Am Israel, in maniera simile, in un certo momento ognuno di noi deve riconoscere che quello che abbiamo, abbiamo. Quello che siamo, siamo. Ma questo è solo quanto è stato fatto a noi. La domanda è cosa stiamo facendo noi. In altre parole, non bisogna essere solamente passivamente quello che siamo. Noi siamo ebrei perché passivamente siamo ebrei. No? Attivamente dobbiamo diventare ebrei nella Neshama. Vuol dire lo siamo, ma siamo noi che dobbiamo cercare e alimentare il nostro rapporto con HaKadosh Baruch Hu. Nessuno lo può fare per noi. Possiamo pretendere, no? E specialmente in Italia siamo abituati a pretendere. Mi spetta questo, mi spetta quello, pretendo qui, pretendo lì, anche senza la parola pretendo, però la mentalità è molto impostata, no? In questa maniera. Allora qui Rebbe Rashab ci sta insegnando, puoi pretendere fino a un certo punto. Un bambino può pretendere, ma un adulto deve guadagnare. Un adulto deve sapere che c'è un merito e c'è un guadagno, c'è una fatica, c'è un relativo premio. E cos'è la fatica? La fatica è un riconoscimento. È tutta un'altra cosa quando tu ti svegli la mattina e dici io oggi sono Yehudi, non perché sono nato Yehudi, io sono perché lo voglio essere. Perché voglio fare una Bechira. Una Bechira vuol dire una scelta. Quando si dice una scelta, non è solamente, ci sta insegnando qui, non è solamente sull'atto specifico. Che noi pensiamo, il libero arbitrio, allora devo decidere bene o male, ogni momento. Anche questo è vero. Devi sempre fare delle scelte morali. Ma non è solamente nell'atto specifico, è anche sulla generalità delle cose. Come vedo me stesso, come vedo il mio rapporto con il mondo, con HaKadosh Baruch Hu. È sempre legato all'azione, qualsiasi cosa. Assolutamente sì, perché acharei amasim nimshachim alevavot, cioè il cuore, il sentimento segue le azioni. Certo, ma tu devi scegliere non solamente di mettere in atto quelle azioni, perché se è solo la scelta legata solo all'azione stessa, sì. Può essere un'azione secca. Materiale. Deve essere materiale, ma non può essere meccanica. Automatica, in questo senso secca. Se invece l'azione è frutto di una scelta voluta di entrare in un rapporto, di entrare in un contesto che tu vivi, che non è impostato, ma che tu auto scegli da solo, giorno per giorno, giorno per giorno, modè anil faneja ogni mattina, allora questo diventa un'altra esperienza. E questo dà vita a tutte le azioni che noi mettiamo in atto, che con il tempo per natura diventano automatizzate, chiaramente, no? Che se siamo abituati a mettere tefilin, allora mettiamo tefilin, possiamo pensare a tante cose mentre mettiamo tefilin, mentre facciamo la midah, mentre tutto questa è la nostra esperienza di tutti gli ebrei che fanno, grazie a Dio, le cose tutti i giorni. Qual è la lotta? La lotta è trovare la novità. C'è scritto nello Shulchan Aruch che bisogna leggere lo Shema ogni giorno come se fosse una cosa nuova data, arrivata oggi, una lettera arrivata dal re. Non è mica facile. Però se si parte dalla partenza, dal risveglio, se dal risveglio si parte con un momento di pensiero, aspetta un attimo, sono qui perché non ho un altro posto dove stare o sono qui perché ci voglio stare? Sono vivo perché mai sia un camion non mi ha messo sotto o sono vivo perché voglio essere, perché ho un senso nella vita? E nel momento in cui una persona si sveglia e si pone questa domanda, vede tutto il giorno in maniera diversa, tutto il mondo in maniera diversa. Ciò che è davvero importante ha rilievo, ciò che invece è meno importante ha meno rilievo, perché mette tutte le cose nella prospettiva. E questo, sta dicendo qui, si chiama Bchira. Cioè il Midrash su Eicha ci insegna non solamente di nuovo a Kadosh Baruch Hu sceglie noi, ma noi Chelki Hashem. Noi dobbiamo scegliere HaKadosh Baruch Hu. Che Hashem sceglie noi è una cosa passiva. Che noi scegliamo HaKadosh Baruch Hu, questa è una cosa attiva. Che richiede impegno, richiede pensiero, richiede approfondimento. Ma prima di tutto questo richiede semplicemente riconoscerlo. Mi fa pensare le Chadodi questa cosa. Perché le Chadodi? Perché lui è il re e la sposa, no? Ah, bravissimo, è vero. È vero, si può usare la stessa metafora di Am Israel come la Kalà, la sposa, la moglie, sceglie, no? e HaKadosh Baruch Hu come il Chatan, come si dice sempre per Matan Torah, che c'era questa dinamica qui, tutto il Shir HaShirim è impostato su questa metafora, ed è verissimo, ci deve essere una cosa reciproca, non solamente passivamente, ma attivamente essere una parte del rapporto. Am Israel ha sempre saputo che non è solo senso unico da Kadosh Baruch Hu, è una strada bionivoca. Bionivoca, grazie, è una nuova parola per me. Consenso, allora. Consensuale. Alberto, prego. Ma ora si potrebbe... Ciao! Cari. Ciao, si potrebbe pensare che il momento, un primo segno in questa direzione, anche se non è tutto, però un primo segnale di questo concetto, di questa direzione che hai spiegato, potrebbe essere il momento in cui la prima reazione di Am Israel al dono della Torah, che subito dice no, ok, se benishma, d'accordo, se benishma. Certamente. Un segnale in questa direzione. Sì, sì. È un atto di scelta, di conferma di scelta. Assolutamente sì. Na se benishma rappresenta rappresenta questa idea qui, cioè siamo noi che diciamo metteremo in atto ed approfondiremo. Non solo riceviamo, ma diamo anche noi. Perché? Prego, scusa. No, prego. Volevo dire, però non sono proprio sicuro di questo. Ma si può dire che con tutto questo schema, questo Hezbon, questa biunivocità, Hashem ci sceglie, noi dobbiamo avvicinarci. C'è molta immanenza in realtà per avvicinarsi a Hashem. Molta? Immanenza, cioè molta praticità, molto assolutamente sì, molto no, perché sai, i filosofi tedeschi come religione noi ci hanno sempre descritto come il massimo della trascendenza e della solitudine, che non è la visione ebraica, è tutto il contrario, assolutamente, soprattutto quelli dell'Ottocento, Nietzsche e quant'altro parlavano sì, proprio sì, della solitudine dell'ebreo rispetto ad Hashem, perché esatto, non aveva alcun contatto. Invece qui stiamo dicendo c'è molta esattamente il contrario. Noi siamo l'opposto. Di vero? Questi. Assolutamente sì. Quello non rappresenta davvero la filosofia vera ebraica. Verissimo, bravo. Ma William, scusa, lui ha detto Naasev Nishma. Naasev Nishma, Ken. E al contrario, non è che è al contrario. Nishma Venase. Oh, no. Noi abbiamo detto Naasev Nishma. Cioè, okay, tu ci dici di fare qualcosa, noi lo facciamo. Poi venishma, nishma non vuol dire solamente udire, vuol dire capire, come Shema Israel, ascoltare, non è solamente sentire, è approfondire, studiare, capire. Allora, quando HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la Torah, cosa abbiamo detto? Innanzitutto, Nase, se ci chiedi di fare, noi facciamo. Poi approfondiamo pure. In altre parole, è una manifestazione di Kabbalat Ol. Accettare il gioco vuol dire all'inizio non lo giudica, prende quello che dà e prendi poi quello che dà, lui ti dà l'istruzione e tu lo metti in atto. E poi lo abbiamo anche una mitzvah di capire, perché l'immuda Torah è la mitzvah Talmud Torah, una mitzvah di capire, di approfondire. Quando porta la Torah, esatto, si sa che cos'è, ci dà la Torah e poi il contrario. Ok, allora signori, grazie, con questo concludiamo per oggi.